Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 27 gennaio, buongiorno a tutti, gli ascoltatori tra la città e il carcere, la voce che vi arriva è sempre quella di Caterina Bombarda e qui con me c'è anche Ignazio De Francesco. Buongiorno, Ignazio. Buongiorno a tutti, buongiorno Caterina. Dacci un saluto anche in arabo per i nostri ascoltatori. Sì, possiamo dire salam aleikum, che pace a voi. Uno dice, ma questa è una cosa da musulmane, ma anche lo troviamo nel Vangelo, anche Gesù quando scompare la cosa diceva pace a voi, pace, e sempre, sempre in Medio Oriente si dice così, però possiamo dire anche marhaban, benvenute, e poi il bellissimo, stupendo, ahlan wa sahlan, cioè sì. Guarda, da me tu trovi una famiglia e una valle, quando tu bussi la porta dici posso? Posso? Ahlan wa sahlan, cioè distenditi quanto vuoi, una famiglia e una valle. Che significa benvenuti sostanzialmente. Benvenuti. Bene, oggi è una giornata importante, al ricordo delle vittime della Shoah, il 27 gennaio ogni anno. E, no, mi sono dimenticata di dirvi in apertura di puntata che naturalmente siete sintonizzati su il canale 103.1 di Radio Città Fujiko, mi raccomando, tutte le mattine ci siamo, dalle 9 alle 9.30 e anche alle 10.30 sul canale 636 di Teletricolore per raggiungere tutte le case detentive della regione Emilia-Romagna. E oggi apro con voi con una notizia locale su Bologna, perché nei giorni scorsi è stata data la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Leggo questo articolo di Luca Muleo sul Corriere di Bologna che apre citando le parole del nostro sindaco Virginio Merola, che ha detto una cosa molto bella. Dice: è nostro concittadino, deve essere liberato e tornare ai suoi studi a Bologna. Perché lo ricordiamo, quasi un anno fa Patrick Zaki, studente egiziano all'università qui di Bologna, è stato rapito praticamente, adesso è in detenzione forzata e quindi la cittadinanza di Bologna ha voluto onorarlo di questa cittadinanza onoraria, e infatti il nostro sindaco ha parlato di detenzione ingiusta, perché purtroppo è così, esprimendo preoccupazione anche per lo stato psicofisico di salute di questo studente egiziano ancora in carcere al Cairo. Una notizia molto che ci rattrista molto tutti quanti e che speriamo presto di poterlo riavere nel nostro Ateneo. E bisogna dire anche che queste notizie di queste detenzioni ingiuste, anche le torture di cui sentiamo parlare in certe carceri del Medio Oriente, della sponda meridionale del Mediterraneo, e anche accade anche tra noi nei nostri paesi, e tuttavia sono sempre contro i principi umani e del diritto degli stessi popoli nel quale queste cose avvengono. Io ricordo questo articolo, adesso non magari lo recupererò, della Costituzione egiziana bellissima del 2014, che dice: la tortura in tutte le sue forme è un delitto non soggetto a prescrizione. E quindi lo Stato egiziano solennemente si impegna a dire: non dimentichiamo la tortura. Quindi questo vale più di qualsiasi altra cosa. Ricordare a una repubblica, a uno Stato, quello che ha scritto nella propria Costituzione. Questo ovviamente vale anche per noi. Molto importante questo passaggio, perché le costituzioni di questi paesi nuove, no? Sono costituzioni nate da poco dopo le primavere arabe, quindi ritorneremo su questo, Ignazio, ne parleremo un'altra volta. Ma io adesso vorrei parlare con te sempre di notizie dal mondo. Adesso siamo in Albania, cosa succede? Sì, ho rubato molto tempo prima, quindi c'è poco, ma per dire che dall'Albania viene una notizia molto importante. Diciamo, lo parliamo anche perché tanti ragazzi che sappiamo nelle nostre case circondariali sono dall'Albania. L'Albania ha conquistato 30 posizioni nella classifica mondiale della sostenibilità energetica. L'indice pubblicato dal World Energy Council classifica l'Albania al 43esimo posto su 108 paesi analizzati. Allora noi vediamo un piccolo paese, un paese che sta crescendo, e che tuttavia in un campo come così importante come quello dell'energia, che dobbiamo tutti custodire a partire dalle cose che avvengono intorno a noi, sta andando avanti e ci sta dando anche delle lezioni. Grazie Ignazio. E quindi adesso dobbiamo lanciare il nostro brano musicale e mi dici che cos'è e perché l'hai scelto. Abbiamo Wadia Safi con un pezzo bellissimo, O Notte, un pezzo sulla magia della notte tra sogno e veglie, le notti del Medio Oriente. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه تسألني ترى هل سافرت ليلى دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. E rieccoci sulle note del nostro Wadi al-Safi, O Notte. Adesso sempre con te, Ignazio. Volevo continuare dalle puntate di ieri e di ieri l'altro il nostro discorso sulla virtù della pazienza. Abbiamo detto che è una virtù per noi è una virtù cardinale, Ignazio, la pazienza, ma anche nella cultura araba, ho capito bene, no? Esatto. E oggi c'è un detto fondamentale che ci spiega, questo bisogna, ragazzi, che voi che ascoltate, bisogna impararlo a memoria, che gli italiani non italiani, così dice... Asabru alla durubi talata, fasabru anil maasi, wasabru alla taat, wasabru inda shada'i del musibat. Allora, la pazienza è di tre tipi. Allora, c'è avere pazienza alla sopportazione nella tentazione del peccato, nella tentazione del peccato crimine, chiamiamolo così. Il maasi sono anche le cose che riguardano anche il crimine. Poi la pazienza nelle cose buone, le cose in cui bisogna obbedire, che bisogna fare, e poi la pazienza nelle sventure della vita. Perché c'è una pazienza, per esempio, nel reato, nel crimine o nel peccato. Se uno gli fanno un'offerta, per esempio, che con una rapina oppure con un carico di droga mette in tasca più di quello che potrebbe guadagnare in 10 anni di vita onesta, allora per resistere a questo invito che gli fanno, uno deve avere una grande pazienza. E così anche per fare cose buone, si dice, per svegliarsi alla mattina alle 3 di notte, come fai tu, monaci, esatto. E come fanno i musulmani, che si uno magari è a letto, no? E poi deve scendere giù, immagino quelli che sono nelle camere detentive, devono fare l'abluzione, devono svegliare i compagni, poi devono fare, uno dice, ma chi me la fa fare? Fa freddo, mi sto a letto sotto la coperta. Quindi ci vuole anche una sopportazione nelle cose buone. E poi l'ultima cosa stupenda, e questo è proprio, devo dire, io avendo abitato in tanti anni in Medio Oriente l'ho visto, la sopportazione nelle sventure della vita. Ti muore un bambino piccolo, ti muore la moglie, il marito, perdi il lavoro, tante cose, ti viene distrutta la casa. Perdi la casa, perdi tutto. Io ho visto degli esempi di pazienza, di sopportazione che sono davvero meravigliosi. È bella questa immagine della pazienza come memoria, memoria della nostra umanità, memoria della nostra coscienza. Noi nella nostra cultura, quando pensiamo alla pazienza, pensiamo alla, c'è sempre il detto, la pazienza di Giobbe, no? Ma tu lo sai bene perché anche tu studi le scritture, perché possono succedere tante cose nella vita, ma non siamo mai dimenticati in qualche modo. Possiamo dire questo, no? Che alla fine non siamo mai abbandonati. Hai ricordato Giobbe, si può dire nella tradizione araba, no? Per dire un'esagerazione, Giobbe gli cadeva la pelle a pezzi per terra e aveva tutti i vermetti nella pelle. E lui a un certo punto nei detti islamici su Giobbe vede un vermetto che cade per terra, lo rimette sul braccio e dice: te mangia, questa è la parte che ti ha dato Dio. Per dire, bisogna curarsi, non è un'esagerazione, ma per dire come si può sopportare anche la prova di una grave malattia. Grazie. Adesso Ignazio, noi ci rivediamo sempre domani con te e adesso io lancio un brano musicale legato un po' ai fatti che vi ho raccontato in apertura di cronaca. È un pezzo musicale famosissimo dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un altro buco nel muro. Eccoci su Liberi Dentro. Oggi presentiamo i servizi sanitari, soprattutto per chi ora è dentro e ha bisogno di un inquadramento su quello che è il piano assistenziale sanitario previsto dalla legge. E lo facciamo con un ospite che in realtà conoscete perché lei è Agnese Drusiani. Ciao Agnese, buongiorno. Ciao. E ci ha accompagnato nella prima fase di Liberi Dentro Eduradio lo scorso anno e quindi continuiamo con lei questo servizio. Agnese, classe 1992, è educatrice professionale che lavora in carcere dal dicembre 2019 all'interno dell'equipe sanitaria, quindi intanto complimenti. E sei una figura nuova all'interno del carcere, nel senso che ti occupi di promozione della salute. e di attività riabilitative con i detenuti. Ci presenti un pochino oggi com'è la situazione e anche i dati rispetto al carcere della Dozza, se puoi. Intanto, buongiorno a tutti. Aggiungo un buon anno così volante perché insomma siamo ancora nella prima Certo. settimana. Ma guarda, allora, adesso fare la panoramica oggi forse su tutti i servizi diventa un po' lungo, un po' complicato, quindi magari ci prendiamo tempo anche nelle prossime volte se possiamo. Chiaramente. Quello che intanto posso dire è che sicuramente, come tutti sappiamo, noi ci siamo sempre in questo periodo a maggior ragione. Per la cura di tutti siamo sempre qua presenti. È chiaro che alcune attività, mi riferisco soprattutto a quelle di gruppo legate alla promozione della salute, in questo ultimo anno non sono state possibili e al momento ancora non sono possibili. Lo dico perché c'è anche chi me lo chiede, chi ce lo chiede. A me piacerebbe molto, ci piacerebbe molto, ma ovviamente per motivi di assembramento e tutto quanto noi in questo momento non possiamo fare attività di gruppo, ecco, come facevamo in passato. Certo, ed è questo il motivo per cui siamo tutti su Eduradio a fare le cose, purtroppo ancora in distanza, ma sapendo a chi stiamo parlando e dove anche, quindi questa è una cosa che aiuta. Quindi un po' questo, cioè l'assembramento è una. E quando fate le attività, ho detto che tu ti occupi di attività riabilitative con i detenuti, esattamente cosa fai? Come ti occupi di promozione della salute? Allora, intanto proverei a tenere un po' distinte le due cose, nel senso che per quanto riguarda la promozione della salute, in questo momento ovviamente lo sportello d'ascolto è attivo su tutte le sezioni, però anche per motivi di numeri di presenze nostre come equipe di promotori, non si riesce a tenerlo fisso su tutte le sezioni, quindi, come i miei colleghi dell'equipe sanitaria sanno, andiamo su segnalazione. Quindi vi invito, nel caso in cui abbiate bisogno di fare un colloquio rispetto a bisogni di salute, domande che avete, anche domande sulla questione del Covid, domande sul vaccino, sulle patologie, sul movimento, su come provare a stare meglio e lavorare sulla vostra salute. Basta semplicemente dirlo all'infermiere o al medico di sezione, io lo vengo a sapere immediatamente, poi vi chiamo e vi chiamiamo, ecco, quello sì, però non riusciamo a garantire una giornata perché in questo momento le figure sono molto poche, quelle dedicate alla promozione, ecco, in questo momento Quindi, ci sono io. Quindi, sì. naturalmente, questa cosa delle domandine dei detenuti è ancora garantita, questa per le richieste, insomma, naturalmente. Allora, considera che io non mi muovo attraverso domandine, nel senso che rispetto come dire, all'ambito sanitario, in questo senso ci muoviamo proprio per segnalazione diretta. Siccome comunque i colleghi sono sempre presenti sul piano tutti i giorni, basta chiederlo a loro o quando si vede me in giro, basta chiedermelo e ci muoviamo in questo modo qui, ecco, sì, assolutamente. Sì, senza passare dalla domandina, ecco. Agnese, è venuto il momento di lanciare un brano musicale. Io chiedo a te cosa vuoi lanciare. Allora, ci ho pensato e vorrei lanciare Mi fido di te di Jovanotti. Bene, lanciamolo anche perché per un servizio sanitario bisogna anche sapersi affidare, quindi ottimo brano. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato. Di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va, di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te. E dopo aver ascoltato il brano di Jovanotti, Mi fido di te, e Agnese, io ti chiedo, siccome è vero, è ripartita Eduradio adesso il 18 gennaio, ma non c'è soltanto il nostro programma di 30 minuti al mattino dove ci sarai tu come Nadia, ma ci saranno proprio dei laboratori anche pomeridiani, e ti chiedo che cosa farete, un po' quali sono le vostre idee su questo. Allora, diciamo che siccome ci siamo detti appunto la parte di gruppi con gli esperti che facevamo prima, in questo periodo non riusciamo a portarla avanti, approfitteremo di questi laboratori video anche per affrontare una serie di tematiche che vanno dalle patologie croniche che conosciamo a come fare movimento negli spazi un po' ristretti che abbiamo dentro, all'alimentazione corretta, al prendersi cura appunto del corpo, della salute, dell'igiene, passando anche per esperti magari in ambito della salute mentale che ci daranno qualche consiglio su come stare meglio dentro nelle nostre giornate. Queste sono un po' le nostre idee. Invito però tutti i nostri ascoltatori assolutamente a farci sapere se hanno altri desideri, per chi è qua dentro da un po' lo sa, in passato tutti gli anni si faceva un momento di raccolta anche dei bisogni di salute. Quest'anno questa cosa non sarà fattibile negli stessi modi degli anni precedenti, per cui io lancio e dico che se avete bisogno, avete desideri, avete tematiche che vi interessano sulla salute, fatecelo sapere. Fatelo sapere agli infermieri, ai medici, a me quando mi vedete in sezione, ecco. E ribadisco, lo potete fare anche scrivendo a liberidentro.eduradio@gmail.com attraverso le vostre email, l'avete già fatto per le puntate di Natale, quindi vi invitiamo di nuovo a farlo, e oltretutto, proprio perché hai riportato questi temi, mi fa piacere perché nel report del Garante dei Detenuti, il regionale dei detenuti che uscirà adesso a gennaio, proprio sono stati anche i detenuti e le detenute a consigliare queste rubriche sulla salute, sull'alimentazione, quindi mi fa molto piacere che anche tu adesso l'abbia detto, e ti chiedo se mi fai un'anticipazione, il primo laboratorio su cosa lo vorreste fare? Il primo lo vorremmo fare, visto il periodo complicato, sappiamo anche dal punto di vista un po' psicologico per tutti quanti, ed entra a maggior ragione, volevamo fare un momento di meditazione guidata. Wow, bello. Ospite? Probabilmente sarò io con una mia collega, quindi in quel caso bene. Potremmo essere noi. Molto bene, ti ringrazio tanto. Adesso un brano musicale lo lancio io, anche per fare una foto ricordo di quello che è stato, certo, questo anno difficile, ma con la speranza poi di un futuro certamente migliore, e lancio Photograph di Ed Sheeran. Grazie, e Agnese, ci vediamo alla prossima. Grazie, alla prossima. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, heart sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Mm-hmm. And it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. Ben ritrovati, siamo arrivati ai saluti. Ci salutiamo con l'anticipazione di quello che sarà l'ospite di domani, che Marcello Mattei, il cappellano del carcere della casa circondariale Dotta di Bologna, con cui continuiamo un'indicazione, un commento su quello che è il Vangelo, che sarà il Vangelo di domenica 31 gennaio. Il nostro invito, come sempre, è a scriverci all'indirizzo di posta elettronica liberidentro.duradio@gmail.com e all'indirizzo postale di Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 126 Bologna. Mi raccomando, scriveteci e trovate tutte le indicazioni anche in sigla alla fine della nostra trasmissione. Buona giornata e noi ci rivediamo domani, sempre qui a Liberi Dentro.